7. Ascolta e controlla. 1. Vado in palestra tutte le sere. Ne esco sfinito. 2. Quando andiamo al mare ci restiamo 2 settimane. 3. Verrete con noi al concerto? Purtroppo non ci potremo venire perché non abbiamo i biglietti. 4. Questa riunione è stata lunga e inutile. Ne siamo usciti tutti delusi. 5. È il suo giocattolo preferito. Non se ne separa mai. 6. Non me ne vado finché non mi spieghi cosa è successo. 7. È un bel negozio. Ci vado spesso e mi trovo bene. 8. Perché se ne sono andati? Non lo so, forse erano stanchi.